Nel mondo ci sono oggi stimate 285 milioni di persone che hanno un handicap visivo grave. Tanto per farci un'idea, questa è la popolazione dell'Indonesia, se fossero tutti nello stesso paese. Di questi, 39 milioni sono ciechi, completamente ciechi. Stiamo parlando di una popolazione che, se fosse tutta insieme, avrebbe la dimensione della popolazione dell'Argentina. Quindi sono cifre molto importanti ed è un problema che merita molta più attenzione di quella che normalmente non riceva. Nel passato, 10 anni fa, questi numeri erano rispettivamente 314 milioni e 45, quindi c'è una diminuzione del 10% delle persone che hanno un handicap visivo grave o che sono cieche nel mondo. Per la prima volta il numero di persone nel mondo che hanno un handicap visivo grave o una cecità per la prima volta mostra un'inversione di tendenza, è sempre andato aumentando negli ultimi 20 anni, gli anni in cui perlomeno io sono stato testimone di queste cifre, di queste misurazioni. Quest'anno per la prima volta notiamo un'inversione di tendenza e che è ancora più significativa perché le persone che hanno un handicap visivo grave o sono cieche in genere hanno più di 50 anni, diciamo che l'80% delle persone con questi disturbi di vista hanno più di 50 anni. Bene, le persone che nel mondo hanno più di 50 anni è aumentato negli ultimi 10 anni di circa il 20%, mentre il numero delle persone con un handicap visivo nella stessa popolazione si è ridotto, il che vuol dire che i servizi di prevenzione, di cura e di riabilitazione stanno finalmente arrivando alle persone che ne hanno bisogno.